Fratelli in casa giocano a roulette. Russo attivo anche a Natale, Ferragosto e Pasqua. Solo sei soldi in tasca, la piazza è la mia prigione. Vita, lavoro e ho soldi puliti, adesso sporchi. Parla con i miei soci, sai che 2 più 2 fa 4. Mia madre ha capito tutto. Cresciuto in piazza, non mi sposto. Fratelli chiusi in quel posto, voglio morire grasso. Sto in alto come le nuvole. La tua ragazza vuole me, troia, chiamami principe. Soldi in tasca come fossi un principe. Mio fratello ti spoglia come zingari. In 40 siamo zingari. Dark, dark, dark gang, triplo 7 sempre attivi. Non perdo soldi neanche nei giorni festivi. 900 al collo, non chiedermi perché brilla. Fumo blunt, no shisha, in strada come mostri Godzilla. Spezia 30 solo per la tua ragazza. Infame fa la spia, ora deve cambiare faccia. In giro con la gang non parliamo con nessuno. Dal polo Yakuza giocando a roulette russa. Bevo e fumo, i miei fra parlano russo. Basket, cucine, pezzi e cintura Gucci. In giro con la gang non parliamo con nessuno. Dal polo Yakuza giocando a roulette russa. Bevo e fumo, i miei fra parlano russo. Basket, cucine, pezzi e cintura Gucci. In giro con la gang non parliamo con nessuno. Dark Polo e Yakuza giochiamo a roulette russa. Non mi fido di nessuno, neanche di mio fratello. Guarda che è successo fra Tony e Manny. Chiamo Pyrex, valli a prendere. Chiamo Tony, vieni a prendermi. Entriamo nel posto, c'è odore d'erba. Spero che non ti offendi. Ho comprato una cinta Fendi, ho i versi dietro la Bibbia. Se hai paura leggi una Bibbia oppure di l'Ave Maria. Sto fumando Maria, arrivata in pace. Bob Marley, non porto pace, schiaccio questi bastardi scarafaggi. Bambini ti fanno lo scarabeo prima che ti affacci. Ti attacchi al cazzo, si attaccano a due soldi per litigare. Non litigo io, chiamo qualcuno, il problema è finito. Lei vuole fumare, fammi uno squillo, il problema è finito. La zona non avrà più magre, c'è la dark gang. Stiamo giocando alla roulette russa con 7 colpi in canna. In giro con la gang non parliamo con nessuno. Dal polo Yakuza giocando a roulette russa. Bevo e fumo, i miei fra parlano russo. Basket, cucine, pezzi e cintura Gucci. In giro con la gang non parliamo con nessuno. Dal polo Yakuza giocando a roulette russa. Bevo e fumo, i miei fra parlano russo. Basket, cucine, pezzi e cintura Gucci.